e riprove se possibile. Come vuoi, se vuoi ci spostiamo così non disturbiamo. E volevo farti sentire due microfoni e vedere quale piaceva di più anche qui. E poi devo regolare il Roger Beep, siccome che l'ho fatto regolabile di un altro apparecchio che sto mettendo a posto, e mi serviva a sapere quale nota ti piaceva di più. Andiamo sul 15, dai. E fai anche 20. Scusate, un attimo, stavo andando sul 20. E cappa, mi sa che anch'io devo chiudere perché devo farmi la doccia, la barba e che dobbiamo uscire. Dai Claudio, ti saluto, un abbraccio. No, una curiosità, che peso può avere quella radio? Sì, dai, ti ringrazio, dai, ti auguro una buona serata, buon tutto. Saluto anche gli amici, non so Giulio se rientra, quando rientra non salutate voi. Claudio, torre di controllo, Roberto e Gianfranco e compagnia bella, dai, un abbraccio a tutti, per chi ci è rimasto, Luca e Natalino forse, spero di non aver dimenticato nessuno. Dai, ti rilancio ancora le mic, alle prossime. Grazie ancora, altrettanto, ciao ciao. C'è nessuno qua? C'è qualcuno qua? Chi è? Avanti! C'è qualcuno sul 10? Ehi, è tu che sei, buonasera. Chi sei? Ho detto tu che sei, ho detto buonasera. Buonasera, non ho capito chi sei però, perché ti ascolto basso di radio. Ah, mi ascolti basso, vabbè, buonasera comunque. Uranio qua dalla collina, K, operatore Francesco, a te cambio. Aspetta un attimo, che ti sto ascoltando molto basso di radio. Ripeti il nominativo. Ho detto Uranio dalla collina, operatore Francesco, K, a te cambio. Come senti adesso di radio, bene? K, adesso già ti sento. Uranio, buonasera Uranio. Come ti sta arrivando? Santiago e radio, please. Ok, provo a vedere, e comunque di radio sta arrivando 5, di segnale mi pare sei sul 7, ok, a te cambio. Cappa, guarda bene, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai Cappa. Ok, allora, perfetto, ho dei segnali 6, 8, 8. 8, sì, segnale, la tua radio è 5, Cappa, e io come sto arrivando lì a te cambio. Lo stesso, dai, Santiago 8, radio 5, stai arrivando. Ok, dai, stavo mettendo a posto questo apparato e lo stavo provando, però non c'è nessuno, ho trovato a te. Vabbè Uranio, ti saluto che devo passare a fare altra cosa, dai, ci sentiamo alle prossime, mi ha fatto piacere ascoltarti. Ciao Uranio, buonasera. Ciao, ciao, buonasera, buon proseguimento di serata e ciao Toro Cordiale, ciao, ciao, ci sentiamo. C'è qualcuno sul 10 qua? Chiara, chiara, positivo, frate, senti qua, che bello. Bello, no, ci siamo soltanto un attimino con Fabrizio a fare questa prova con questo Saturneco, una bomba, e poi c'era la 948, i rem compattate, c'ha dei picchi allucinanti, qua le 945, vabbè siamo abbastanza vicini, ma c'ha dei picchi con la radio, da paura. Ciao Luccariello! Ciao Fabrizio! Sì, sì, anche qua vedo che il picco di modulazione è alto, No, lui il picchio! Tipo pappagallo, come voi, pedisvella, gaganella, non lascia bene quel baracchino, anche il bip è bello, ma puoi cambiare il tono del bip, Fabri? Sull'altra sì, dovrei, volendo, bisogna aprire, dovrei lavorarci, ma non vale la pena. No, questa, sì, questa non c'è da lavorare niente, già fatto, sì, volendo si può aprire e cambiare il tono del bip e anche la permanenza, sì, c'ha due trimmer, quindi lo può regolare, non c'è bisogno di modificarli, ma l'avevamo regolata con Claudio, la sì, anche il picchio sul K è un bel alto, sul Galaxy si nota di meno, però sul K si nota un bel fabbrico, è un bel alto il picchio. E se spinge, spinge perché questa, questi doppi modulatori hanno un finale da 6 watt e l'ho portato 10 watt la modulazione, quindi spinge parecchio, e in più qui c'è il trasformatore suo che è enorme e quindi c'è entri col primario, secondario, non fa il classico trasformatore di un amplificatore e quindi già spinge maledizione. È sicuro, diceva povero Bacchisio, è sicuro. KK, no, io sono alla Volo Galaxy perché da tanto tempo che no, c'è il commutatore, quindi posso commutare tutte e tre le radio. Però c'è pettura adesso, ho sentito a te col baracchino e te ci l'accendo anche io. Però è un ottimo ricevente. Vai Robin Hood, andato sia Olbia. Sì, sono andato e tornato, sono andato anche a Calabanaldichi, bello anche l'estate, inverno, dai. E in autunno è bello, faccia un colore il cielo, sulla tavolata c'è il che si fa il cappello, le nuvole si mettono proprio sopra la tavolata. Veramente, diciamo, qualche volta capita di vederlo, ti fa tipo un cappello, un sombrero sopra l'isola di tavolata, bellissimo. C'era il colore, sbagliava la cartolina, ha fatto le fotografie, veramente bello il posto. Poi non c'era neanche freddo, stava bene. Ah, e ci ho lavorato lì in quella zona Olbia. Ci ho lavorato, è bellissima quella zona lì, molto molto bella. Era vicino lì a quel villaggio che c'è, lo volevo dire in fretta ma non metto più, mi sto rincoglionendo. Vai Logarie. Murta Maria, no, è Murta Maria, è verso, sono proprio Olbia in uscita a Cugnana Verde, tutte quelle zone e quei villaggi facevamo, cazzo, ma quando era Esaf, non era rottura di balle d'estate, che non veniva bene a dirlo, però d'inverno si stava bene, poco traffico, si lavorava bene, ma d'estate, mamma mia, tra l'uscita lì, tra Via del Domoro, arrivare a Cugnana, ci mettevo come andare da qui a Porto Torres, per carità. E oggi che c'era turisti, c'erano lì a Calabrandicchi, c'erano un sacco di camperizi, ho visto quelli soprattutto erano svizzeri la maggior parte, un po' di camper, gente facendo sul bagno, ha detto bum bum. Tutta gente un po' che avete esaurito, anche l'altro giorno ho fatto un giro verso Fatemona, c'era gente in acqua, non è più tempo di stare in acqua, dai, finiamo. Assistere invece in umanità, no, che ci sono 6 gradi, altro che fare il bagno, finiamo freddo che vengono, Sant'Antonio, la casa è da favola, ma quando ci fu nel giardino, già da quest'ora mi. La mattina presto, quando c'è mia figlia andare al lavoro, devo uscire prima io con la pelle e asciugarle tutti i vetri della macchina perché sembra che abbia piovuto. L'erba è completamente proprio bagnata, non umida, bagnata, cioè ci metti la scarpa e ti bagni i piedi. C'è un bel di umidità fuori e un bel di freddo la sera e la mattina presto. Vai Fabri. Non ancora, oggi sì c'è freddo la mattina, oggi invece io sono rientrato e non c'era freddo, si sta bene, anche se non è bellissima la giornata, però non c'era freddo. Vabbè, sto cercando 737, quello della CT Internet, quello lì è un ottimo amplificatore che costa poco, vediamo se si trova. 737 o 756, io ho il 757 dentro l'armadio, nuovo, se vi fare qualche esperimento sappi che ce l'abbiamo, non comprare nulla, che ce l'abbiamo. E cosa stavo dicendo? Domani pioggia forte, minchia, domani pioggia forte, forse già da stanotte roba. Sì, già stanotte ho visto la televisione, la specie di uragano si sta spostando verso la Sardegna, diciamo attenuato, però porta un po' di acqua, quella roba della zona della Sardegna bassa, meridionale, viene presa in pieno, diciamo, non forte come Siracusa e Ragusa, però un pochettino ci becca anche a noi. Tutto il giorno, anche lunedì piove. No, io ho trovato una nebbia da prima di ieri sino a Berchita, ma nebbia, mi fate dire, cos'è questo fumo? Sembrava quando bruciano qualcosa, invece c'era la nebbia, ogni nebbia. Ehi, qua la malata facciamo io tutte le mattine e l'aria trova la nebbia, tutte le mattine, proprio nebbia e uscire dal cancello è un casino perché poi sei già nella strada, quella che va oggi cielo è, cazzo, è un casino. Bisogna stare un po' attenti. Luca Rie. Sì, là, se stavo parlando avete cazzo di gatto. Ti stavo dicendo, la Juventus sta ancora giocando o ha finito? No, lasciamo lui, non la sto seguendo, non mi gioco mai idea, dice guarda, è una squadra di cadaveri. Cioè io, tu lo sai, io sono sportivo, critico faccio, ma a me vedere squadre del genere, soprattutto la mia squadra, giocare a quei livelli non mi interessa più, cioè non ho da perdere tempo, anche ti ripeto, se potrei guardarla e criticare o valutare, ma non mi interessa, cioè non puoi giocare così. Sono convintissimo e ne sarò più convinto più avanti, ma la Juve quest'anno non fa né quarto posto né quinto posto, proprio non ha gioco, non ha niente, sono spenti, forse Allegri si è rincoglionito, una partenza non bella, senza niente lui, quindi cioè, le altre squadre sono valide, sono preparate, hanno gioco, fanno vedere spettacolo, questa proprio non c'è niente, nulla, niente, tenendo conto che il Verona è una grandissima squadra, senza ombra di dubbio, perché ha dato mattana a tutte e ne ha vinto anche con le grandi, però non si può andare a giocare una partita fuori casa a quelle condizioni, dai, per favore. Vai Fabri. Invece questo è il capo. E questo è una fregubba. Ecco, questo qua invece è quello che uso sempre io. Va bene, va benissimo, ottimamente. No, non ci stanno problemi. Mi sa che quest'anno è così. E Gaesu Gonzo, ma ho sentito dire, poi non so se è vero, che la società ha un bel buffo, cosa dici? Ma che sappia io, mi pare che si era indebitata abbastanza, quindi non stai dicendo fesserie, si era indebitata abbastanza con l'acquisto di Ronaldo, altre cose che aveva fatto, mi pare che fosse sotto di 40 milioni di euro, poi non so se li ha recuperati, che cosa ha fatto lui, ma non sto seguendo neanche più come si dice, gli acquisti, le vendite eccetera, perché veramente è una squadra che non mi sta piacendo per niente. Io guardo le squadre che giocano bene, a prescindere che siano le mie o che non sia la mia simpatizzante, la Juve è la mia squadra, però vedere a giocare in quelle condizioni, come ha detto Giulio, è veramente vergognoso per uno sportivo, per uno juventino, per uno che le piace il calcio. Preferisco guardare altri tipi di partite, come guardo l'Inter, guardo il Milan, ho visto il Cagliari e mi è dispiaciuto, però cioè, l'Atalanta, cioè la Lazio, il Napoli è una macchina da combattimento quest'anno, Napoli scembeteggia tutti, una macchina da combattimento, vabbè, forse a Fabrizio non interessa il calcio, Robby riprendi. No, io la sto guardando nel sottofondo, comunque sono 66esimo, quasi, sempre 2-0, mi sto offrendo un capo a palloncino il Verona, pur vincendo, sta attaccandomi, cioè quel Simeone è incontenibile, la Juve ha fatto quel mezzo tiro con Dybala, quello che ha preso la traversa, niente di più, una bella parata al portiere, ma il Verona ha fatto 4 gol alla Lazio l'altro giorno, col Milan ha perso 3-2, diciamo il Milan ha fatto una bella partita. Stava vincendo 2-0, poi ha fatto 3-2, poi meno male ha pareggiato, ha vinto il Milan 3-2, però è una delle squadre che secondo me gioca meglio, considerando che non hanno campioni tipo Juve, Napoli, Inter e Milan, una squadra di, come chiamiamoli, di operai, gente che corre, si impegna, è veramente una bella squadra giocando. Vabbè dai, io vado a mangiare qualcosa che troppo esco, ci sentiamo dopo se ci siete. Vai, cuocuomane. È vero. A dopo, là. Ciao cuocuomane, sei tu che non te lo dice. Cuocuomane. Alliero Pedibella. Moto bicicletta. Bianco Fabri, un secondino, arrivo subito. Eia, vai Fabri, capito la pioletta, se devi fare qualche esperimento, fare qualcosa, io un 757, non prendere niente. No, sì, avevo un tentativo, devo vedere e capire cosa gli voglio fare, adesso già è molto quello che ho fatto. Adesso sto provando invece, adesso mi stacco 10 minuti, se riesco, devo cablare un microfono, c'è un microfono amplificato di quelli della CTE, adesso lo voglio provare. Fai, già siamo qua, non problem. Va bene. E se non devi cablare nulla, Fabri, 49, boh, 59 euro, mille, più 5 l'ho preso a fusare, non ho cambiato manco la connessione, gliel'ho infilato e ha funzionato subito, vanno bene questi microfoni, qualità prezzo, sono eccezionali. Sì, vado bene, ma io non questi 90 non li devo usare, e era giusto per fare, dai che provo, voglio provare a vedere questo microfono al diavolo, al mare. Vai, vai, diavolo, fate la cablatura, già siamo qua. Ciao Darie, buona passeggiata, tappa di che ho freddo gani, No, 80 euro il microfono. Quanto, Francia? 80 euro costa, l'ho costato anch'io con il microfono. Ho l'MP4 e l'MP5, comunque con una serie sono tutti, scusa se sono entrato così a precare. Bene bene, c'ho anche qua il 737, quello che sta facendo Fabrizio. Ok, a te il cambio, dai, buonasera. Ciao Francesco, buonasera, ma sto 80 euro, no. Io guarda, l'ho preso quest'estate da Fusaro, vabbè che con Mattia c'ho un rapporto abbastanza amichevole, quindi mi fa sempre dei buoni sconti. L'ho pagato, adesso mi ricordo se è 59, allora ho pagato 59 l'MB più 5 e 49 l'MB più 4, perché ce li ho tutte e due, capito? Questo è l'MB più 5 sul Galaxy Saturn Echo e va veramente molto molto bene. E a me mi era fatto pagare fare l'MB più 4 me l'ha fatto pagare 60, l'MB più 5 è 80, e non peraltro potevo anche scendere di più, nonostante tutta la spesa che ci ho fatto lì, vabbè, là, comunque va bene lo stesso, ok. Come mi senti di radio? Benissimo, alla grande, il segnale il tuo, la radio è buona. Ah, è ok, yeah. Perfetto, perfetto. Indovina che microfono sto usando? Che microfono stai usando? Un MC60, no? Bravissimo, bravo, bravo. La timbrica è quella, perché c'è medio bassi molto, molto acuti, quindi la timbrica è quella. Lo stai usando sull'ICOM? No, negativo, lo sto usando sulle 2001, le Midland del 2001. Con l'adattatore ti hai fatto? Sì, mi hanno fatto l'adattatore, sì. Va bene, va benissimo. Va molto bene, bella paccata la modulazione, non è fortissima ma comunque molto chiara, molto bella. Io il 60 l'avevo usato col presidente Lincoln, molto, usciva molto molto bene, anch'io con l'adattatore, però avevo messo, allora aspetta, hai messo le batterie per caso nell'MC60 o non le hai messe? No, negativo, è tutto alimentato dall'apparecchio qua. Ah, ti hanno fatto direttamente l'alimentazione dall'apparecchio. Il MC60 sotto c'è un tastino per caso? Sì, certo. È in posizione out dietro, quando tu c'hai il microfono avanti, il tastino ce l'hai in avanti verso di te o è indietro? Mi pare che è in avanti. Mi pare, controlla, beh. Sì, in avanti, crap. Ecco, ok, e quindi va bene. Sopra dove c'hai l'impedenza, c'è 50-500, a quanto ce l'hai? A 50. Ottimo, sì, come ce l'ho io. Perfetto, ma sta andando bene, Michelina, manetta. Sì, a manetta. Va bene, porca miseria, va bene. Non è fortissima la radio, ma è molto, molto chiara. Molto molto chiara, poi magari quando rientra Fabrizio vediamo cosa ne pensa. Va bene, un bel adattamento, caspita, ottimo. Sì, a quanto pare sì, e poi me lo stai dicendo anche tu, quindi già va benissimo. Già sapevo, avevo chiesto controlli anche più a Pietro e mi ha detto che si sta uscendo bene, dai. Ok, perfetto, no, è un bel abbinamento, ok. Sono qua, posso usare anche, diciamo, con lo stesso abbinamento, infatti c'ho qua anche la V908 e se stacco questo, collego l'altro, e va benissimo lo stesso anche l'altro, ok. No, vabbè. Aspetta, sta abbaiando il cane, non capito perché, aspetta un attimo. Sì, avanti, chi chiama sul 10? Ciao Mirko, io ti ascolto bene. 7-4. Così stai uscendo bene comunque. Prova. Sono rientrato io. Aspetta, Dalghero. Dalghero? Ah, io ti sento bene ugualmente. Aspetta, ti mando avanti Roberto, io ti faccio delle prove. Roberto, lo senti? Ciao Mirko, mi hai sentito? Prova a parlare, non ti stavo ascoltando. Sì, va bene, ti ascolto bene anche così comunque. Santiago 8, tenete a 9, la Radio 5. Sei rimasto qua su 10? Quindi stai facendo anche Saturno ecco modificato, Fabrizio. Fabrizio, sei rimasto qua sul canale 10? Sono qua e roba, scusa, che stavo parlando con Francesco di Osilo e ho scelto il canale Bagliare. Sono saliti due cinghiali da giù, dalla parte di giù, minchia amici di Alicas. Meno male che il cancello è sempre chiuso. E attenzione a Lugane, se i cinghiali si girano bisogna stare molto attenti, sono in greffa soprattutto. Ok, Mirko, prova a parlare, scusa un attimo, ma sto parlando con Claudio. No, ti sento bene, grandissime differenze non ne ho notato. Puoi ancora farlo, questo microfono sei al massimo. No, ti ascolto Radio 5 e Santiago quasi 9, 8 tendenti a 9. Ehi, sai quanti ce n'è qua nel circondario? L'altro giorno è caduto un ragazzo in moto scendendo da Osilo, per poco si ammazza, ha attraversato la strada e l'ha preso in pieno. Fortunatamente ha mollato la moto e lui si è buttato praticamente non nella strada, nell'erba. Se prende il guardare in pieno lo ammazza. Ed è scappato perché non le fai nulla quando lo prendi così. No, adesso c'erano i cani, il cane mio no. Il cane mio, Robè, non abbaia sempre dentro il cane, cos'era? Con il gatto, già addormentato col plaid, figurati. Non ci sta lui fuori. I cani del mio vicino stavano abbaiando e quando abbaiano così vuol dire che c'è qualcuno. Allora sono uscito e c'erano i cinghiali proprio vicino al mio cancello. Avanti. Roberto, Claudio, guarda come sto uscendo con questo microfono. Bene. Ascolta, la metta a manetta l'amplificazione. Adesso. No, proprio la manetta, adesso c'è il trimmer, mettiamola a 9. Oh, adesso sto uscendo, c'è differenza tra questo e quello di prima? Questo è più forte, Fabrizio. Guarda, adesso faccio una prova, questo è amplificato, questo è un microfono Intex. Va bene, è amplificato. C'era anche Francesco, stava usando un 60 abbinato a un Midland, Robert. Bella radio. Sì, l'ho sentito anche chiara, però non è potentissima. Non so se vi stanno l'alimentazione per amplificarlo. Esatto. Allora provo a lasciare questo, adesso faccio la prova tra questo e quello di prima. Questo cos'è? Per vedere, quello è quello con la batteria da 1,5. Aspetta, provo l'altro. Prova. Per quello, Francesco, ti stavo dicendo, apri il microfono sotto, c'è una sede con due batterie da quanto sono quelle stilo, non le mini stilo, le stilo, le metti due stilo dentro e ti amplifica il circuito di amplificazione. Invece questo è quello suo originale. È un abisso. Quindi con quell'altro spinge meglio? Molto di più. Lì lascio quello da palmo per il momento, eh. Confermi, Roberto. Allora, devo dire una cosa, quell'altro il primo spinge di più Fabri, però è leggermente distorto. Questo è più, se è proprio al limite, secondo me è più chiara la modulazione. Aspetta che però abbasso l'amplificazione dell'altro, mi allontano, aspetta. Togli l'NB, Roberto, che ho fatto la prova anche io, guarda se c'è l'NB inserito del K, toglielo, se non ti manda la voce in distorsione. No, non è, non lo inserisco mai. Guarda, ho abbassato un pochettino l'amplificazione e mi sono spostato dal microfono. Sì, adesso si è pulito, non sta distorcendo. Allora lascio questo, non è male, credo, è da palmo, lascio questo. Adesso mi blocco un attimino, lo cablo bene perché ho appoggiato i fili, lì l'Italia è roba vecchia. Vabbè, questo è il più vecchio, forse è il mio di quando ero ragazzino, non vorrei sbagliare. Che storia mi esce bene, povera, una bella capsula. Francesco! Sì, dimmi. Hai sentito quello che ti ho detto? Infatti lo stavo guardando sotto, ma sportello non è, lì bisogna aprire tutto il microfono in pratica, sotto. Aspetta, lo sportello, c'ha quattro viti, hai visto i piedini di gomma che ci sono del 60? Nei piedini ci sono delle viti, tutte e quattro, le togli tutte e quattro, poi ce ne altre due laterali, le togli tutte le viti sotto il coperchio, non fai nessun danno, stai attento, piano piano. Quando togli le viti, piano piano apri il coperchio, c'è una sede di batterie, ok, di stilo. Metti le due mini stilo, perché senza le batterie il microfono, quando tu lo usi col K, alimenta il circuito di alimentazione. Ma come l'hai fatto tu con l'adattatore? Non viene alimentato il circuito di alimentazione, capito? Perché non prende gli 8 volt dalla radio. Allora tu alimentale il circuitino con due stilo, tanto non devi fare, devi mettere solo due stilo, nessuna modifica, c'è già la sede sua, il portabatterie c'è già dentro, e poi mi dai la risposta, me lo fai risentire se c'hai due stilo di quelli da quanto sono? Da 1,5. Ma ho capito, mi fa ragionare di quelle batterie. E allora un altro momento lo apro, per stasera niente, allora un altro momento lo apro e vedo un po', dai, ok, perfetto. Ecco, lo metti, lo apri, piano piano, non fai nessun danno, togli le quattro viti che ci sono, dei piedini, lo apri appena appena perché ci sono dei fili attaccati, capito, stai attento a non staccare niente, e provi a metterle due stilo, e poi me lo fai risentire. E vedrai che amplifica molto, molto di più, perché così lo stai usando in originale il microfono. Ecco perché ti ho detto, spostami la levetta in posizione amplificata, non amplifica perché non c'è, non è alimentato il circuito, capito? O sbaglio, Fabri? Non sai che c'era Mirko D'Alghero, Mirko ci sei ancora? Guarda Mirko, io ti ascolto perfettamente, la radio bella, pulita, chiara, magari potrebbe essere ancora un po' più amplificata per essere proprio pignole, però ti ascolto perfettamente, il segnale va più che bene, la radio è 5 pulita. Idem lo stesso, non c'è problema Mirko, mi senti col baracchino? Sì, perfetto, anche 10 watt bastano per Alghero da qua. Sì, sì, ti sento benissimo anch'io. Segnale qua, vabbè, diverso, un pochino più basso rispetto al K, però è un problema di smitter della radio, non è perfetto, perfetto. Però la radio è 5, come ti ha detto Roberto, va bene. Ehi, va bene, va bene. Fai girare, Robert, c'è anche Francesco da Austria. Ehi, 2-1 la Juve comunque, McKennie, un bel gol ha fatto. Vai, Francesco. Alla fine si lamenta Allegri, dei buoni chi si chi segna, no chi si chi piglia la traversa. Vai, Francesco. Sì, ok, Perfetto. Va bene, io vi saluto, buon proseguimento di serata allora e ci sentiamo più avanti. Salutoni a tutti e ci sentiamo le prossime. Ciao ciao per me e QRT, ciao ciao a tutti. Ciao, ciao Francesco, un abbraccio, fai quella cosa che ti ho detto, poi ci risentiamo, me lo fai sentire. Perché è veramente una bellissima modulazione, se riesci a amplificarla così con questo sistema è veramente una tonalità molto molto bella, mi piace. Avanti Roberto. Sì, ciao Francesco, ben sentito. Come hai detto Claudio, la radio è pulita, chiara, non posso dire niente, basta alzarla un pochettino, fai quell'alimentazione al circuito di amplificazione e vai alla grande, sta andando benissimo. Un po' più alta è 600%. Vediamo Fabrizio se è rientrato. No, sto terminando di cablare quel microfono. Sì, quindi ti stai dedicando alle modifiche dei baracchini, Fabrizio. In questo periodo sì, avevo qualcosa di... sai quelle cose che uno ci ha fare molte volte ci dice Marco, alla fine mi sono messo, poi sono testardo e per quello molte volte, non perché ho questa, è proprio la testardaggine che mi porta molte volte a riuscire a fare le cose, se no avremo l'atto. Oh Fabio, hai sentito cosa ha detto a Francesco? Sì, quello non è alimentato, sta lavorando come che fosse un M50, così si chiama, M50 era. Ehi, M50, me ne ho un altro, se ti serve. Nuovo, da fare amplificato, come hai fatto quella? Sì, ma infatti, anch'io l'avevo usato sul presidente Lincoln, me l'aveva fatto Massimiliano Archimede, UP per capirci, e mi ha detto appunto mettici le batterie perché non ho toccato niente, mi avevo solo messo il connettore, capito? Infatti per poter alimentarlo è meglio mettere le batterie e poi vedere come esce, ma c'è una bella modulazione, bella chiara, vabbè. Mirko di Alghero, com'è? A Musantrenda, com'è? Tutto a posto l'Alghero? Ti spaventi poco per l'antenna? Già va bene, beh, la Game Master già tiene abbastanza del vento, però bisogna stare sempre allerta. Questa ho già sperimentato, questa J-Pole famosa, flettono gli ultimi due elementi, però 8,50 m di antenna, mentre il centrale essendo doppiato con l'altro pezzo da 2,50 m manco si sposta, vabbè che è 4 m, non è che sia molto alta, però va bene, va bene. Cosa vuoi dire? Quanto manca Robè? Ma non ce la fa a pareggiare, una squadra di cadavere. Ho dato uno sguardo, due minuti, ma l'ho spento subito. Manca. casomai guardo un maneggio di Dybala, 89 minuti di gioco e qualche cosa, però quello non li fa il 2-2 più di Dybala, cioè, dato no, gliel'ha parato il portiere, catta di Baranda, dall'incrocio del pali l'ha tolta, ha fatto due parate quel portiere fenomenale. Sì, ma la palla bisogna metterla dentro, vince chi segna, no, vince Cappigliari Travesci. Vabbè, lasciamo perdere. Hai terminato, Fabrizio, a sembrare il microfono? No, sto finendo. Vai, così. Poi lo riproviamo. Ci sia mai, mi è capitato almeno una volta. Lo stesso già non ci vedo una massa, però ero riuscito a farlo in un baracchino a 4 di quelli che avevo vintage, che poi ho passato tutto a Crovietto. Vabbè, ero riuscito a metterlo, l'ho provato, ci avevo fatto la prova a te quando ero a Carbonazzi, perfetto. Ah, perfetto, ok, sono riuscito. Cazzo, vado a chiuderlo, fischiava, sembrava un coso, un treno, e chiudendolo, deve essere che avevo messo male i fili e toccavano uno con l'altro la casa, mi sembra col rosso o col nero, faccio un casino. Che patigione, ma carità. Vediamo se c'è qualche donato sul 10, la facciamo entrare, avanti chi vuole entrare? A Sagunura prenderò Brecco. Allora, tu infatti sentivo un segnale, un importante, non ti ho sentito, Anto, avanti. Cappa, buonasera a tutti, buonasera. Ciao Anto, no, io non ti ho sentito la verità, ti avrei fatto entrare immediatamente. Cappa, cappa, è già fatto Gigi attaccando via. Vabbè, ma se parla Roberto e Francesco Dio ci sono gatti via giunti due attaccati. Già lo so già. È come che parli tu con Natalino, la stessa cosa. E meno male che non c'è Claudio Di Muros, che mi arriva alle 9.50, cazzo. Mamma mia, come sto. Ma oramai è quella la tua zona. E vabbè, è normale. È normale. Ehi, va bene. Adesso cambio radio anch'io, Galaxy lo spegniamo, già scaldato, l'abbiamo fatto funzionare. Mirko, riprendi che cambio radio. E avanti. Ti ha rilanciato coso, sai, cioè, tutto bene, Mirko, non lo senti? Cappa, non lo sento tanto bene stasera, ieri lo sentivo bene. L'hai sentito l'altro mio Mirko? Lo senti bene? Un po' bassino, sì, forse, boh. Insomma, adesso guardo il coso, guardo. Ma tu cosa stai usando? Il coso, come si chiama? L'87 adesso. No, il segnale è bello forte. Secondo te. Ehi, vediamo di nuovo Mirko. Avanti a te il mic. Ma di alimentatori stai parlando? Eccomi qua, sono passato con le K di Rogero. Ma cambianetta, eh. Tu, sono 10 watt Galaxy, perché stavamo facendo le prove. Adesso sto andando col K di Rogero. Eccolo qua. Adesso mi sono andato a prendere il Chantencare e lo pulisco, comunque è sporco. Gare! Fabrizio, bisogna segnare a fondo scala, Mr. Smith. Siamo vicini noi, è per quello, Mombolo, è per quello. L'ho chiuso, qua, come ti sembra? Ti verrà bene? Sì, auguro che va bene, se non sbaglio. Io, aperto funzionava, mio, l'ho chiuso e fischiava, no, questo va bene, Fabrizio, alla grande. E allora, anche questo lo lasciamo così, è inutile stare a fare i circuiti dentro. La prossima mossa che ce la farà questo apparecchio è lavorare sui watt, cercare un attimino di aumentare un po' di roba, almeno una quarantina, trentina, roba del genere, 25, dai. Quello mi sarebbe piaciuto anche a me veramente, perché una radio è eccezionale, io la uso poco perché chiaramente c'è solo 10 watt, però a livello di questo locale si può usare tranquillamente, la zona già me lo permette, capito? Però c'è un ricetrasmettitore favoloso sotto il Mac, veramente, portato a 35-40 watt, è eccezionale, regolabile, c'è tutta la regolazione da fuori, veramente, viene un bel lavoro, l'avevo visto però, non voglio compreso un accidente, ho visto solo questo legnaletto piccolino così, troveto, che era messo in quella posizione, non aveva fatto nessuna modifica, però andava bene. Vai Roberto, prendi. 2-1 finito la Juve, c'è Allegri e Nero. Cosa deve dire Allegri, Roberto? Non mi fa arrabbiare, cosa devi dire? Non deve dire niente. capito, non deve dire niente, intanto perché fa dei cambi che non capisco come mai non continui a giocare con quelli che ha iniziato, cioè Chiesa deve essere titolare, lui ancora non l'ha capito, Chiesa deve essere titolare, al posto di Morata può giocare il primo tempo lo può giocare McKennie e il secondo tempo lo può giocare Morata, oppure alternare. Morata non è un giocatore, me l'hai detto anche tu, no? Manco io le parlo quando la Juve l'ha voluto, lei figlia di Dio, vai, porta di zio, non è più un giocatore che aveva la Juve negli anni che furono, capito? È così. Guimolo che mi è arrivata la pizza. Eia, fra un po' vi muovo anche io perché c'ho ancora il farmaceutico che si è bruciato tutto. Io adesso faccio bianco e ci sentiamo dopo se riesco, se no vediamo, vai. Andò a farmi la doccia. Ehi, a cantare stai andando tu. Caffa, fra un po' vai, fra un po' vado a cantare. E vado a farmi la doccia che oggi ho lavorato. Vabbè, certo che sì, un pochettino di rinfresco, dai. Ci sentiamo dopo, quanto vai Roberto, c'è anche Fabrizio, buona cena, vai Roberto. E anche una sorgata, la pizza, però mi ha detto ci vuole un'oretta a arrivare, perché da allora che non scende il buio, ho detto no, non aggiungare, sono messo dentro la nuova Urbia, sono un bel stanco, non è Puglia. Ok, chi è rimasto qua? Vediamo Mirko di Alghero, avanti a te Mirko. Guarda, si è svegliata agli ultimi 15 minuti, il resto era inesistente, sempre gusti fatti. Oggi gli è andata male perché non è riuscito a pareggiare, anche se ha avuto un paio di occasioni, il portiere ha fatto delle belle parate, ma io dico la Juve non può giocare gli ultimi 15 minuti, o stanno remando contro i giocatori, io non riesco a capire una decadenza del genere. Ma visto, come non gli ha dato il rigore al 90esimo? Almeno pareggiava, no? Danilo era contento. Non lo so io, non so, io non sono Juventino, ma per certi versi mi dispiace, una squadra gloriosa, prestigiosa, che è in zona retrocessione quasi, non dico proprio perché le altre, il Cagliari e quelle sono molto giuste, noi era stata, se non faceva quei due o tre risultati discreti sarebbe stata a livello del Cagliari, mi pare la quarta sconfitta che ha quest'anno la Juve, allucinante. Il coso, gli altri stanno tirando alla grande, c'è il Milan, Napoli, l'Inter ha vinto ieri, quando è avanti ieri, non mi ricordo neanche, la Lazio e l'Atalanta hanno pareggiato 2-2, ma questo Verona è una sorpresa, non me l'aspettavo così forte, io proprio una bella squadra. Ok, Fabri, avanti a te di nuovo. Fabri, siamo là, che è arrivata la pizza. Ah, pensavo stessi ordinando la pizza. No, è arrivata, è arrivata. Guarda, io non mi sorprendo per niente, capito? Io l'ho vista giocare con l'Empoli, quando ho perso con l'Empoli ho detto, boh, la Juve è arrivata, largo agli altri, la Juve non fa più niente secondo me, e ti dico con tutta sincerità la Juventino, che a me mi fa solo schifo vederla, ok, si fa dell'Europa League e poi dopo. Se fa l'Europa League è troppo, le squadre forti quest'anno sono Napoli, l'Atalanta, il Milan, l'Inter, la Roma, la Juve può stare a casa tranquillamente, può stare a casa tranquillamente, il Verona c'ha più punti della Juve. Devo vedere che Verona c'ha la squadra, secondo me se continua a giocare così per andare in Europa League, è una bella bella squadra, come Torino mi ha impressionato tanto, sono delle squadre toste da battere, non per niente è Kutu 4-0 l'altro giorno. Voi perdete la Juve, col Milan se la giocata fino alla fine perché è riuscita a riconquistare il pareggio, il Milan se non fa quel 3-2 alla fine, forse 4-2 è finita, insomma ricordo, finiva in parità la partita per come ha giocato il corso. Purtroppo è così, per certi versi anche meglio, almeno non c'è la monotonia dei soliti risultati della Juve, 9 scudetti consecutivi, non c'è la storia, adesso vediamo un campionato più equilibrato. Ok, lasciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare avanti, se no riprendi tu Mirko. No, io adesso vi saluto, che stavo ascoltando, sono già pronto e me ne esco, là, poi odore. Ciao Roberto, Claudio, e poi non mi ricordo chi c'era, comunque saluti a tutti e alla prossima. Cioè, ti aggiorno Roberto con la roba là, ciao. Ehi, quando vuoi, non c'è problema, grazie per il momento, buon tutto Luca e buon divertimento per l'uscita. Magari fammi sapere se ti serve quel bellino, capito? Sì, no, vabbè, tanto per il momento la collego col cavo di rete, dai, già c'ho la linea a casa. Ehi, era già installato, me l'aveva già installato, come si chiama, vabbè, ma la gente era gente là comunque il Bennino, perciò ma la passava a tutte le farmacie, perciò vabbè, ma dovevi tutto che fare a nuovo, vabbè, già fammi sapere, se ti serve però. Avanti Mirko. Ma che è Mirko, questo è utilizia. Minco, vorrei di Mincia. Bisogno di Mincia, Minciami a lì. Lì, Ciami a lì. Ehi, ehi. Ciao, ciao. Ciao, vedi. Che cos'è della Proxel? Ah, Mirko, della Proxel. Che è successo? Non ho capito, ho comprato un alimentatore, vuole modificare, non ho capito perché. Io ce l'ho 60 ampere della Proxel, ma funzionano benissimo. Adesso ce l'avrò 10 anni. Forse di quelli di computer l'ha preso. Ah, quelli di computer. Vanno bene anche quelli, vanno bene anche quelli. Cosa devi modificare? Io l'ho messo dentro un case, anzi, la verità, non l'ho fatto io il lavoro, me l'ha fatto Franco California, cioè un alimentatore che praticamente l'ha bruciato al trasformatore, tutto svuotato, l'ho messo dentro, c'è l'interruttorino della ventola, un po' rumorosa la ventola, ma quella che me la sistemo io, metto la resistenza, la faccio più silenziosa. Uno strumento davanti, accensione, tutto illuminato, bello, un bel lavoro ha fatto Franco. Però è da 35 ampere, ce lo tengo di scorta, non si sa mai. Ma io ho quello della CEP da 60 ampere, ma 60 ampere continui, teoricamente ne può dare più di doppio quel alimentatore sovradimensionato, proprio tirato al minimo i finali, cioè quelli, come si chiama, 30-55, adesso mi ricordo quali sono quelli con la cosa, con l'alluminio, ma nemmeno ne ha 6, è una bestia, un trasformatore che non ne parliamo. E poi c'ho quell'altro, il DS300, quello da 30 ampere, però lui è autoventilato, quando lo tiri per il collo ogni tanto si accende la vela. Stai parlando di certo, stai parlando di Prox, c'è un buon alimentatore, stai parlando di roba professionale. È normale che sia un buonissimo alimentatore. Sì, la CEP fa solo alimentatori, per quello è una bella, un bel giocattolino. Sì, che sono enormi. Non vedo gli alimentatori, c'ero distanti dalla vera radio. Ho fatto una base apposta, come aveva carbonati. Li ho messi lontano in modo che non rompano le palle, che siano un po' più silenziosi, perché se li metti a fianco alle radio per vedere luci come fa qualcuno e fa troppo casino, capito? L'alimentatore più distante è meglio. Già l'hai visto dove è il mio, completamente separato sotto a tutti e anche schermato, nel senso, perché c'è il primo ripiano in metallo sotto, proprio non ci sono problemi di niente. Io non ho mai avuto, grazie a Dio, di problemi con l'alimentatore. No, ma la cosa principale è allontanarlo, perché altrimenti ti fa rientro di RF, fa un casino, senti la ventola, poi noi chiusiamo il 60-60, è un microfono molto particolare, subito fischia, fa, capito? Non viene sempre allontanato gli alimentatori. Assolutamente, io grazie a Dio già non ho problemi di spazio. Ho visto l'altro giorno un radioamatore con un 60, gli ha fatto il collegamento, gli ha messo il toroide nell'ingresso del coso, dice per la radiofrequenza, la prima volta lo vedevo sul microfono. Ah, il toroide perché innesca, normale, capite? Molti mettono un cavettino dalla connessione del circuito di alimentazione, fanno un cavettino di massa al connettore della radio, ma sono tutte cagate, non serve a niente. Non ci vuole assolutamente niente, ci vuole un bel piano di massa. Quando il piano di massa è a posto e le radio non hanno rientro di RF, l'MC60 non fischia, capito? Non, a me non ha mai fischiato. Sì, anche io devo dire la stessa cosa, basta fare, io tutti gli apparati, ho un ferro ad angolo, diciamo, grosso, slingato, con un bullone da 13, tutte le masse vanno su quella roba lì e poi collegato fuori alla massa del palazzo. Esatto, e poi soprattutto avere tutte le prese a tre, doppie prese, ciabatte non ce ne voglio, devono essere schermate, cioè l'impianto va fatto bene, perché poi diamo la colpa alla radio, il microfono, fischia, connettore, ma è così che funziona. Se c'è un bel piano di massa, le radio sono messe al suo posto, non deve fare nessun rientro, non deve fischiare niente. L'M60 l'unico difetto che ha è quello che ogni tanto si inchiola questo cazzo di interruttore, di commutatore, di preamplificazione, quindi lo devi muovere. Io ho provato mille volte, non sono mai riuscito a capire qual è il problema, niente. Lo apri, lo spruzzi, lo spray proprio buono, quello che compri a Fusaro, ti asciuga subito, veloce, non è olioso. Non lo fa per 3, 4, 5 volte e poi riprende a farlo il problema, capito? Non capisco perché. Bisogna consultare a Fabri a vedere cosa ne faccia di questo difetto, di questo piatto di MC60. Io non ce l'ho, l'hai visto, l'MC60 mia non è a interruttore, è diverso dal vostro. Magari è meglio di questo, non lo so, è quello che ho dato io. Non è amplificato lo stesso, però sicuramente il circuito è diretto, non hai il tartino che elimini la preamplificazione e la inserisci come questo che ho io, capito? Magari è un modello fatto prima ed è diretto e forse va meglio, non crea quei problemi. Questo, con questo interruttore che hanno messo, che alla fin fine se si può eliminare me lo faccio eliminare da Fabrizio, faccio mettere diretto. È proprio l'interruttore che va in tilt, cioè non passa, si blocca, evidentemente non passa l'alimentazione e non ti alimenta il circuito di preamplificazione, invece essendo diretto forse funziona meglio come il tuo. Non lo so, non lo conosco. Non ha niente, c'è un forellino al centro della base di sotto, della base inferiore, dove c'è questo interruttore che fa in out, in posizione amplificata, out è spento, capito? E quell'interruttore, intanto vedi come a volte va in tilt anche quello di Antonio Bombolo, è quell'interruttore lì. Se si può eliminare, è una modifica che bisogna fare a questi cazzo di microfoni, perché è veramente una rottura di balle. Anche quando è che sono entrato, c'era Franco, sono entrato a rispondere a Giulio, ho schiacciato, non stavo uscendo, ho toccato l'interruttore e subito si è ripreso. Quando ho visto troppe cose da toccare, è sempre quello il discorso, meno roba c'è da muovere è più affidabile. Infatti ti ripeto, il tuo, non avendo quell'interruttore, non ti creerà mai problemi, perché l'alimentazione al circuito, le 8 voci che arrivano dalla radio sicuramente sono diretti, passano direttamente sul circuito. Bisognerebbe consultare Fabrizio a vedere se è così, ma penso di sì. Mentre invece questo che ho io passa su questo interruttore che inserisce e disinserisce sicuramente gli 8 volts, e quando va in tilt non ti amplifica la radio, capito? Pensava così, ok. Chi è? C'era Amico, è andato via o c'è ancora Amico? Ci sei? No, aspetta, la scala non fa venuta. No, va bene, ce l'ha già. No Mirko, guarda, se stai attento dove c'è gli attacchi per l'alimentazione, che c'hai un più e meno, stai attento che uno salta, c'è più e meno, meno e più, più e meno, sono tre le cose. A fianco lì dove poi c'hai il carretto dell'alimentazione a 220, c'è una resistenza variabile, c'è una resistenza, un trimmerino piccolino, ok, c'è scritto volt, se è uguale al mio, ok? E lo regoli da lì, ti metti il test e le dai, anziché 12,5 le dai 13,8, e allora sono quelli stracco baratto baratto. Quello che ho io, c'è già la resistenza variabile, c'è un trimmerino dove c'è scritto volts, col tester te lo regoli addirittura fino a 15 volts, io l'ho regolato fino a 13,8, però il mio è da 35 ampere, ok? Mi hanno fatto appunto un bellissimo lavoro, me l'hanno messo dentro un case vuoto di un alimentatore che avevo, con i cavi che escono, cioè i pomellini, il rosso e il nero, eccetera, un bellissimo lavoro. Non si vede, perché vederlo è bruttissimo quello. Vedi, un alimentatore vero e proprio, però all'interno c'è un altro alimentatore switching, capito? È da roba cinese, Mirko, da roba cinese, già li conosciamo. Ci dovrebbe essere la regolazione del volts, ci dovrebbe essere, controlla, perché se metti una resistenza non succede assolutamente niente, così è roba. Assolutamente no, però lui può fare un'altra cosa, siccome quegli alimentatori hanno diverse uscite, per dire c'è il 12, 6, il 4, bisogna vedere che uscite c'hai, quel trimerino magari, perché tanto più di 12 non ti dà quella roba lì, glielo abbassi in modo che anziché dartene 12 te ne dà magari 10 e li metti in serie quella l'uscita 4 volt, se è regolabile, non lo so, bisogna fare delle prove col tester e vedere, gliela metti in serie le due uscite, quella a 12 e quella per dire a 2 volt, e poi col trimerino gliela abbassi appena appena se c'ha tanti fili, perché i vecchi alimentatori di computer c'avevano tanti fili, bisogna vedere un pochettino, oppure se c'è un'uscita a 15 volt gliela abbassi col trimerino, sempre che te lo permetta di scendere a 13,5, non salire più di 13,5, perché magari se ti dà qualche picco, non lo so, se non sono di qualità magari ti escono 15 volte e faccio la radio. Beh raga, io vi saluto, se ci siete ci aggiorniamo dopo. Vado a mangiare un boccone. Ok, ciao Robby, ciao Fabrizio, se sei ancora in ascolto. Ciao a te Mirko, chiunque fosse su 10. Buona serata a tutti, vai Mirko. E ciao Sara, buona serata anche a te. Io sto aspettando che mi portino la pizza, infatti da un momento all'altro sto per chiudere, mi hanno detto verso le 8:30, speriamo che arrivino puntuale, mi ha detto un'oretta ci voleva. Ok, vediamo un attimino se c'è qualcuno qua sul 10, avanti chi vuole entrare, se no riprendi tu Mirko. Avanti Mirko. Ma teoricamente dobbiamo avere il circuito, io non è che sia un tecnico, magari sarebbe bene a chiedere chi è più pratico, utilizzando le due uscite, perché se tu le metti in serie 12 più 5 fa 17 volt, però sono troppo alto, dovresti abbassarti un po' il 12 e un po' il 5, per dire portare a 10 il 12 e il 5 lo porti a 3, le abbassi un pochettino se c'è la tensione regolabile naturalmente, o se no lasci a 12, la radio sino a un certo range di tensione riesce a funzionare, se sono 12 volt effettivi e non cala, non c'è un calo, come si chiama, una caduta di tensione, lo puoi lasciare anche a 12. Se parliamo di apparati di un certo pregio bisogna stare attenti, perché le tensioni basse possono creare dei problemi se c'è un HF o cosa del genere. Sì, devi trovare il punto di regolazione, non è che ti metti a mettere una resistenza in uscita, perché sennò c'è solo calore, generi solo calore e basta. Devi trovare il punto di dove arriva il transistor prima o dopo il transistor, non lo so, io ti ripeto non sono un tecnico, devi leggere e vedere il circuito, farselo spiegare o capire, poi a quel punto ci metti quel trimerino di con un valore adeguato, naturalmente io non lo so da quanto vuole messo, però se la radio funziona anche con quell'alimentatore solo a 12, mettilo e basta, fregate, non dovrebbe creare problemi in assoluto, soprattutto per un baracchino, che è un circuito abbastanza semplice. Ma tu gliene stai dando 12 continui, per cui se non c'è una caduta di tensione, per dire un alimentatore che ti dà 50-60 amperi li fa, non devi coricare anche il pelo, con anche se li metti 100 watt. Sì, se c'è un vecchio alimentatore magari se lo strumento ti permette di leggere correnti di alte, diciamo, te lo modifichi tu lo strumentino, se c'è la regolazione dietro magari glielo attenui un pochettino e te lo corrigi tu, per dire 10 ampere, corrigi, metti sotto, ci scrivi per 3, per dire per 30, che arriva a 30 ampere, quei 10 che leggi ci devi scrivere per 3, perché molte volte fanno così lo strumento, come fanno nei wattmetri, nei tester, ci sono le scale di coso, i puntuali li metti nel punto per 10 e ti legge, sempre utilizzando la stessa cosa, quello che hai letto lo moltiplichi per 10 e va bene lo stesso. Se c'è un alimentatore vecchio con due strumentini non fai altro che tenerlo, però ti ripeto 12 volt dovrebbe funzionare comunque con la radio. Sì, e come fai a portarlo su se non hai trimmer di regolazione? Normalmente i trimmer sono per abbassartela un pochettino, per attenuarla, non per sollevare. Secondo me l'unica soluzione è fare come ti ho detto io, se c'hai le regolazioni, però devi avere le regolazioni di tensione, c'hai le due uscite, le metti in serie, meno vuol più, e poi ti colleghi e misuri quanto si riesce ad arrivare, però non salire oltre i 13,5, se no c'è il rischio che fai danno, e puoi provare direttamente così se riesci a farla. Ok, vediamo se c'è qualcuno qua sul canale 10, avanti che vuole entrare, non c'è nessuno, comunque mi ascolti bene tu di segnale, comunque la radio no, mi interessa più che altro del segnale, la radio è esente da frusci, non mi porta preso niente, sì, vabbè, no, diciamo, per almeno sono abbastanza aperto, anche a te ti ascolto perfettamente, questo che il microfono mi ha detto questo è un più 4, ma è da palmo questo, ha avuto un grandissimo miglioramento rispetto all'altro giorno, la radio è 5, bellissima, pulita, va ottima, un pelottino più alta potrebbe essere, però da parte mia è una radio salottiera, va più che bene. Questo è il 6009 o il 3009? Ha una domanda, cosa noti di differenza tra il 3009 e il 6009 di prestazioni? C'è anche l'eco con la radio? No, io sono assolutamente negativo per l'eco, no, non mi piace, va bene per i professionisti camionisti quando si devono far sentire tra di loro, ma qua in stazione base una volta che ti senti bene, io dico devi fare in modo di avere la migliore possibile modulazione, la più fedele al naturale, e io ti metti cose per sporcarti, è come che io mi metto a parlare con una persona prima con un coso, con un megafono. Se mi ascolta bene la mia voce, perché la devo deteriorare per dire che sto uscendo più forte? E il 99% degli eco ti deteriora la voce. Difficile trovi un eco di qualità, a meno che non prendi qualcosa di coso, costosa, che non ti deturpi la modulazione. Sì, sì, c'è una bella propagazione, probabilmente non voglio dirlo, però devo verificare, credo che sia l'anno delle macchie solari. Le macchie solari sono ogni 11 anni e probabilmente, scusa che abbasso il volume qua, si è acceso un'altra radio, la coincidenza delle macchie solari del picco è ogni 11 anni, non so se sia quest'anno o l'anno passato, però ho notato c'è una propagazione anche a lunga distanza, perché l'altro giorno c'erano gli Stati Uniti e raramente li ho sentiti. Sì, c'è da dire che io parlo con una chiamata, non mi hanno risposto perché a parte erano uno sopra l'altro, secondo me usano potenze esorbitanti, magari non li sentiamo anche per quello, magari c'hanno 3 kW attaccati e noi con 5 W non andiamo da nessuna parte, però li sentivo forte, arrivavano oltre 9, canale 11, canale 12 e poi anche in altri canali, soprattutto l'11 e 12. Ma di questo non te lo so dire perché è talmente grande e gli Stati Uniti, se andassero tutti sul canale 6 sarebbe peggio che mai, probabilmente usano tanti canali, non lo so, non ho idea se c'è un canale monitor per i DX, normalmente i DX si fanno sul canale 45 e il canale A27555 che sono fuori banda. Spesso ci sono gli esami e tra poco a novembre sono online, si fanno online gli esami, salvano il 30 di settembre le iscrizioni. Sì, sì, Sardegna penso che sia una delle ultime, perché se tu vai in Lombardia, Reggio Emilia e tutta quella zona lì li hanno già fatti già da qualche giorno, dai diciamo 10-15 di ottobre li hanno già fatti. Dai, se c'è la possibilità di prenderla è una bella cosa, puoi fare anche altri tipi di attività, diciamo una cosa interessante. Adesso di fare la sessione diciamo estiva, entro il 30 aprile devi consegnare la documentazione, salvo che non succeda una guerra mondiale o un altro Covid o cose strane, perché questa è la prima volta che la fanno online, diciamo la sessione d'esame. Una novità, sono stati sfortunati quelli che avevano l'esenzione, perché anche loro, quelli che hanno l'esenzione, devono fare una piccola prova, non pratica, un colloquio diciamo di qualche minuto per vedere l'effettiva risposta, qualità diciamo di informazioni tecniche che possono avere. Pensavo fossi un profano, quindi c'è da insegnare a me e a molti di qua in frequenza. No, io pensavo fossi una persona poco addentrata come la maggior parte di noi, invece se riesci già a costruirti qualcosa c'è da insegnarci tante cose, dai. Ok, e normative le avevi studiate, le sai le normative? Non sapevo, scusa, allora se io mi permettevo di darti delle informazioni tecniche ce le puoi dare tu, ripeto, ci puoi insegnare tu visto che sei 40 anni e mezzo, ma non è solo una passione, non è un lavoro, è un hobby questo. Me l'hai detto l'altro giorno, cosa fai, perché poi ti sentivo a tratti, cosa fai la tua operatività diciamo quella vera? Scusa Mirko, volevo interrompere, dai Mario, se c'è qualcuno ci sentiamo dopo. Ciao alle prossimine, ciao ciao. Ciao Roberto, ci sentiamo. Ciao, volevo chiamare una cosa a Roberto, ma ci sentiamo alla prossima, ciao ciao.